Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ma non è assolutamente un caso, è che c'ho tre giocatori che erano praticamente avevano bisogno di cambi, e ne ho già tolto uno, che era Khedira, e c'ho Piazza con i crampi, Sturaro che aveva un problema, Marchisio con i crampi, e diciamo che c'è stata un'incomprensione. Vi siete chiariti poi quando è finita la partita? Assolutamente, non c'era nessun problema, sono cose che succedono. Domani Bonucci va in tribuna. Questo non vuol dire che sia un gigantista. Io dopo la partita ho parlato, ho rimunzionato, perché non è successo niente. Sono cose che capitano in una stagione, però era giusto, per rispetto della squadra, dei tifosi e della società, che io prendessi questa decisione. E qui il caso è chiuso. Leo ha capito quello che è successo, da ragazzo intelligente, da persona e soprattutto da giocatore importante che è per la Juventus, e soprattutto questo per lui è un esempio importante per il futuro. Questa voglia di strafare, questo senso, chiamiamolo, di responsabilità che uno ha, fa accettare, diciamo, non bene determinate scelte e si vivono male determinate situazioni. Ma alla fine non c'è, cioè non penso che ci sia nulla di estremamente grave o di compromesso. Sono cose che accadono spesso, soprattutto quando il livello della squadra è alto. Allora, l'incipit della trasmissione tratta dal film Donnie Brasco: sono stato convocato, quando sei convocato devi andare. Vale per voi 800 24 00 24, vale per Pierluigi Pardo in linea da Oporto. Come va? Va come in un film. Questa Champions League, no Pier, questa Champions League è un film pazzesco, mai visto prima. È una Champions pazza e senza regole, piena di gol, 29 nelle partite che abbiamo visto fin qui negli ottavi, diversa da tutte le altre, piena di notizie, e quella di Bonucci è onestamente molto grossa, perché... ha ragione il nostro comune amico Maurizio Corsetti, scrivendo: perché un muro di cemento diventa di colpo una lastra di cristallo? Perché mai il padrone del muro decide all'improvviso che tutti possono guardare oltre quella barriera? E cosa succede se dietro quella barriera c'è la Juve nuda? Che succede? Mai, questo è un inedito storico, perché come questo... Tu sai, i segreti di Stato della Juventus sono come quelli, gli X-Files americani, cioè non vengono mai alla luce. Invece oggi poi Cross sdogana un sacco di episodi accaduti nel passato, poi ne parliamo anche con un diretto interessato tra poco, però qualcosa deve essere successo davvero, cioè non è stata fatta pace dentro quello spogliatoio a Palermo, anzi sono volati gli stracci in modo pesante. La Juventus si è in qualche modo defilata. Oggi Sconcerti dice: era sconfitta dalla società Juventus, perché ha lasciato che decidessero i diretti interessati, e quindi Allegri manda uno dei capi della Juventus, dello spogliatoio juventino, uno che pesa almeno quanto lui, in tribuna. Poi sulle ripercussioni discuteremo. Sì, insomma, ha detto un sacco di cose tutte molto interessanti. Io credo sinceramente che sia una... È stata una sorpresa, nel senso che non me l'aspettavo una decisione così forte e così importante. Credo che sia stata presa questa decisione, essendo Allegri un autolesionista, sicuramente ci sono dei motivi. Penso che ci sia, da quello che si è capito, anche un po' di una serie di cartellini gialli che si sono accumulati sulla pazienza di Allegri, e alla fine paga Bonucci, come sono detto ieri candidamente in conferenza stampa, anche per colpe probabilmente di altri. Cioè, in qualche modo questa squalifica per Bonucci, tra mille virgolette, arriva proprio al fatto che non è stata presa prima una squalifica per Steiner, per Dybala o per altri atteggiamenti, una somma di cose che hanno fatto Allegri. Punirne uno per educare gli altri, quindi? Sì, forse punire, diciamo, anche quello più simbolico. Importante, più simbolico sicuramente, più simbolico perché chiaramente siamo un allenatore, bisogna avere grandissima esperienza, quindi certo è un bel rischio, però insomma se Allegri se lo prende per un rischio calcolato, no? E credo che l'obiettivo, credo che comunque questa sia una strategia, insomma, cioè non è essendo una scelta, come tutte le scelte, ovviamente è una decisione che è stata presa con una finalità. E quindi io penso che sia la decisione giusta, insomma. Come valuti il ruolo della società? Beh, la società sicuramente avrà spalleggiato Allegri, anche se poi in realtà ieri la decisione l'ha presa il mister e non è che si siano sentiti molti altri dirigenti parlarne, però insomma. Credo che sia, ma io non ci trovo nulla di clamoroso, insomma, era successo nel passato, era successo con Luis Enrique e Osvaldo ai tempi della Roma, certo la partita è importante, partita è importante, è vero pure che Bonucci, che Bardaglia e Chiellini sono recuperati, ma è anche vero che vengono comunque da problemi muscolari, quindi non sono nella migliore condizione possibile. Rugani sta molto bene, ma per due partite della panchina, perché ha soltanto tre presenze in carriera, cioè, sì, che probabilmente non è ancora il massimo dal punto di vista dell'esperienza. Ti ripeto, mi fido di Allegri, non penso che Allegri si prenda un rischio così se non ha dentro di sé la percezione che sia un rischio calcolato, che il famoso rapporto costi-benefici debba essere assolutamente positivo, cioè che questo tipo di episodio è fondamentale per costruire un ambiente vittorio d'acquisti fino alla fine della stagione. Certo, stasera c'è una componente di rischio in più, perché è ovvio che se la squadra reagisce, risponde in un certo modo e fa il risultato, allora lei è un trionfatore, ti parlo mediaticamente, no? Di quello, sì, che poi da domani leggeremo sui giornali. Se questo non dovesse succedere, soprattutto magari per degli spifferi difensivi, si direbbe l'esatto contrario. Quindi è un grande soprattutto rischio, per quello che hai detto tu, no? Cioè gli altri due sono lì legati con lo spago, comunque ci sono, no? Chiellini e Barzagli, però non sono, sì, in condizioni fisiche perfette. Bonucci dalla tribuna non può passare alla panchina e poi al campo, quindi il fatto di non metterlo nemmeno in panchina, insomma, è una cosa su cui riflettere, e lo faremo. Arriva questa domanda via WhatsApp da Luciano da Fermo ed è pertinente: l'anno prossimo chi rimane, Bonucci o Allegri? Questo è un altro riflesso che analizzeremo. Traffico. Convocati. Tutti convocati. E Barzagli che lì stanno bene. Tra l'altro siamo venuti tutti, li ho portati tutti a Oporto perché è un momento importante della stagione. La squadra deve essere tutta insieme perché domani in quattro andranno in tribuna. Però sabato abbiamo Empoli, che è un'altra partita importante del campionato, martedì abbiamo Napoli, è un momento molto intenso, bisogna stare tutti insieme perché ci saranno giocatori che giocheranno domani, giocatori che giocheranno sabato, giocatori che giocheranno martedì. Quindi anche nell'ultima partita di venerdì sono stati cambiati 5-6 giocatori e questo posso permettermelo perché è una rosa molto importante e molto competitiva. Queste sono giustificazioni che non reggo. Pierluigi Pardo, facciamo un patto? Sì, allora, io alle 14.30, subito dopo questo blocco, sì, ti spedisco a provare a carpire qualche altro segreto da quello che esce dallo spogliatoio della Juventus. Il patto che se lo trovi mi chiami per tempo. Va bene, ti chiamo. Andata. Se invece trovo del baccalà, non ti chiamo. Se trovi il baccalà, no, io mi arrendo al baccalà. Io mi inchino al baccalà. No, io capisco assolutamente. Salutiamo insieme Paolo Rossi. Ma sì, eccomi. Ciao. Ciao Pablito. Ciao. Tutto bene, dai. Ma si chiama baccagliau. Si chiama, assolutamente. Se non lo sa Pardo, Paolo, noi ci arrendiamo. lo declina in tutti i modi. Baccalà. Ieri mi ha prospettato un baccalà con vongole e maiale che io, per la verità, non ce la potrei fare. Senti, improponibile. Grigliato ieri sera. Grigliato è il mio preferito. Mio preferito. Paolo, sì. Da che mondo è mondo, come sottolinea oggi per esempio Maurizio Crosetti, che apre gli archivi di Stato compresi gli anni tuoi, a Torino non uscivano neanche i respiri, adesso escono gli uragani. Parla della Juve, della vostra Juve dell'82, quando Platini era quello là e passarono mesi prima che Tardelli lo invitasse a cena, eccetera, eccetera, eccetera. Di una squadra che non era probabilmente di amici, ma era come andare in fabbrica o in ufficio. Ebbene, con il caso Bonucci, dicevamo prima, come scrive sempre Crosetti, quel muro è diventato di vetro. Ti sorprende questo? Ma diciamo questo, intanto cioè quello che è accaduto è accaduto in campo a Torino, allo Juventus Stadium, ma poteva accadere in qualsiasi altro campo. Ci sono evidentemente episodi, quelli che qualche giocatore ogni tanto manda qualche vaffa all'allenatore, può succedere. Certo, alla Juve questo non deve succedere, perché alla Juventus, io ricordo che un anno sono stato sostituito per 19 volte da Trapattoni e mai mi sarei sognato di mandarlo a vaffa, ecco. O magari lo mandavi a vaffa, però poi non usciva una parola da lì, non usciva uno spiffero. Non usciva una parola, ma insomma anche la forma è importante, anche farlo davanti ad un pubblico, farlo platealmente, così non sta bene. Io credo che sostanzialmente la Juventus e Allegri abbiano fatto bene, anche perché credo che sia corretto proprio prendere qualche decisione importante affinché questo non accada più. Insomma, deve essere un monito per il futuro. Dunque, Paolo Rossi, che questa sera sarà ovviamente nello studio di Premium per Porto Juventus, e vediamo insieme, e poi sentiamo cosa dici, se questo può destabilizzare Pardo la Juventus in Champions League. Cioè, può avere riflessi questa situazione sulla partita di questa sera che tu commenterai? Ma allora, innanzitutto la partita di stasera è tutt'altro che facile, nel senso che questa cosa non va dimenticata. Studiando un po' di numeri della partita, il risultato che trova il Porto è il Porto ha tradizione, ha storia, è una realtà importante del calcio europeo, non soltanto portoghese. Quindi questo è il elemento. Quindi non so quale possa essere l'aspettativa, però sinceramente insomma non è che stasera la Juve se la porti da casa. È una squadra che il Porto, che non perde, a parte la Coppa di Lega, qui resta a zero, non perde praticamente dal 27 settembre, di questo stiamo parlando, no? Poi ovvio il campionato portoghese non è così complicato, ci sono due squadre e mezzo, vabbè. Però insomma, non è scontato che la Juve vinca stasera, che vinca bene, un 1-1, faccio per dire, sarebbe un ottimo risultato. Quindi bisogna capire innanzitutto il punto di partenza delle aspettative e che cosa si intende per un risultato che non vada bene. Poi, a proposito di quello che diceva Paola, è ovvio, sono anche un po' cambiati, che i televendenti c'è molta più libertà di espressione, non ci sono dubbi. Io devo scendere questo taxi, lo sto scoop, ok? Sta pagando il tassista. No, non importa. Gli hai dato la mancia, Pardo? Sì, mi raccomando, neanche ricevuta, quindi va a carico tuo. Mediaset non paga, sono, non paga. Sono forfettizzato, vabbè, le cose che ne parliamo poi. quindi io non so dirti che cosa si possa intendere per destabilizzazione. Penso che sia una partita complicata. E penso però, ripeto, che se Allegri fa una scelta così importante e così rischiosa, evidentemente la sua testa. Ok, dentro la sua testa. Prima mi sembra veramente. No, ma io non sto. Certo. Però quello che non mi torna, ad esempio, non torna neanche a sconcerti se leggiamo oggi il Corriere della Sera, che domanda a Paolo Rossi: la società come ne esce da tutto questo? Ha lasciato gestire questa situazione dall'allenatore e dal giocatore. Normalmente alla Juventus la Juventus chiama tutti e due e dice: signori, adesso fate i bravi, la storia è finita qui, non esce nulla e ognuno si comporta come deve, anche perché Bonucci, sai benissimo Paolo, nello spogliatoio della Juve conta quanto Buffon, quanto Chiellini e quanto Allegri stesso. Ma mi sembrerebbe abbastanza strano che abbia deciso soltanto Allegri, perché alla Juventus si decide con la società, cioè non credo che la società dia carta bianca in tutto per tutto ad Allegri. Io credo che questa decisione sia stata presa di concerto con la società, che poi ci si assuma la responsabilità Allegri, va bene, ma io penso che in quantomeno ci sia una condivisione dell'idea di tenere. Sì. Ma la Juventus generalmente, in generale, è molto più forte il gruppo che non il singolo. Ed è sempre stato così, diciamo, tutte le decisioni che sono sempre state prese sono state prese sempre a favore del collettivo e mai del singolo giocatore. La Juventus interessa poco che Higuaín vinca il titolo di capocannoniere, che altro. Certo. Cioè, la Juventus contano gli obiettivi, sono gli obiettivi e si devono raggiungere quegli obiettivi. E per far ciò, insomma, si ricorre talvolta al collo, ma lì è la società che di solito decide. Adesso questa decisione, che tutto sommato mi sembra sia davvero, solo dire, mi sembra abbastanza, insomma, strano che la società non ci abbia messo becco, insomma, sopra. È una Champions League, l'ultima considerazione che faccio con Pardo e con Paolo Rossi. Una Champions League molto zemaniana, anche alla luce dei risultati ieri sera, Atletico Madrid che normalmente negli ottavi fa fatica, che va a vincere 4-2 a Leverkusen, e poi c'è questo 5-3 del City di Guardiola, impossibile da leggere. Paolo, so che tu sei un enorme stimatore di Guardiola, però va verso lo zero titoli quest'anno. Sì, però che ben vengano queste partite, dai. Non dico che ho goduto, ma quasi ieri sera. Cioè, è un po' riconciliarsi con il calcio bello, anche se poi ieri sera sentivo anche Sacchi che diceva, insomma, per i puristi è un risultato. Però è un calcio divertente. Io quando guardo la TV mi piacciono anche queste partite. Poi che non raggiunga risultati e non ce la faccia a vincere, questo non lo so, è ancora lì, potrebbe essere una mina vagante. Il Manchester City col Paris Saint Germain sono due mine vaganti di questa Champions, ma io mi sono divertito, cioè, a me piacciono molto queste partite, sì, insomma, sì, dove appunto, quindi insomma, che ben vengano, che ben arrivano. E Guardiola a me piace molto, è un allenatore molto deciso, non sta a sentire nessuno, porta avanti le sue teorie e insomma dei risultati ne ha raggiunti. Io penso che piano piano ce la farà anche col City, però scoppiato il Barcellona, se scoppia anche Guardiola, sì. quella parte lì di storia del calcio quest'anno non arriva da nessuna parte, ma sì. È piena di mine vaganti questa Champions League, in cui mi sembra ci sia una corazzata sola, che è il Bayern. Stavo pensando appunto anche alla Juventus, perché la Juventus quest'anno può essere una squadra davvero che può inserirsi in questo lotto di squadre, cioè, considerando che il Barcellona, insomma, gli diamo l'1% di probabilità, perché penso che fa 5 gol, siamo generosi. Per il resto la Juve se la può giocare davvero con tutte, insomma, quindi si tratta solo di arrivare nel posto giusto, come si dice, al momento giusto. Quindi, sì. Una squadra rispetto a 2 anni fa, secondo me è una squadra più forte davanti nel reparto offensivo, che c'ha la premiata ditta lì tra Dybala e Higuaín, che sono straordinari, è forse leggermente inferiore in mezzo a campo, perché ricordo che 2 anni fa la finale contro il Barcellona a Berlino c'aveva Vidal, Pirlo, Pogba, certo, e adesso c'ha che dirà Pjanic e altro, insomma, quindi semmai c'è una riflessione da fare sotto questa storia. Sì, ne risente anche la difesa, che ha subito 17 gol in campionato, e cosa abbastanza inedita per la Juventus. Grazie Paolo, buon lavoro. Ciao Paolo. Altrettanto, ciao. Ci vediamo stasera dopo la telecronaca di Pardo. Assolutamente, no, volevo dire due cose, con la cura su Buffon, sì. che secondo me, insomma, ieri in qualche modo ha risposto, ed è il discorso che faceva Paolo, poi è ovvio che non avrebbe voluto dire il contrario, però io penso realmente che anche se Bonucci non è un titolare come gli altri, perché sicuramente è uno dei leader di questa squadra, però quello che diceva Paolo è vero, cioè anche lui risponde alla logica che deve essere una logica di gruppo, e quindi se ha sbagliato, ha sbagliato, e gli altri senatori gli continueranno a voler bene, ma però ha sbagliato e si becca la sua punizione, quindi non ci vedo niente di così drammatico. E poi invece sulla Champions io credo che il City passerà, perché ieri in Monaco veramente è stato protagonista di un suicidio sportivo incredibile. Cioè, io penso che l'inerzia, come dicono quelli bravi, della qualificazione sia tutta ormai nelle mani del City, che è uscito da una buca profondissima, sì. Una partita che si era messa stramale. Monaco gioca, secondo me, molto meglio del City, Sì, sì, però sì. Ieri è proprio, ma l'avevamo mancata... detto, no? 51-49, l'avevi detto anche tu. No, ma è proprio ieri è proprio mancato, secondo me, sul più bello, anche perché poi ci sono delle difficoltà difensive, insomma, i nomi adesso senza infierire, però è chiaro che il Monaco è una squadra con un grande potenziale, ma ancora delle fragilità, soprattutto dietro, e ieri sono viste tutte. Beh, però guarda che, insomma, anche il City con questo 5-3 non è messo benissimo in vista del ritorno. Sì, è messo malissimo. Il City, insomma, gioca veramente male, ma in generale fino a questo momento la stagione del City è, non dico disastrosa, ma quasi. Cioè, il dato politico è che il City non risulta al momento una di quelle squadre che ti danno l'impressione di poter vincere, no, la Champions. Però la partita di ieri può essere stata veramente trasmossa, perché ieri il City era spalle al muro in una condizione disperata. Monaco poteva fare il 3-1 sul rigore, ha fatto quel gol meraviglioso, andava sul 3-2, insomma, perdere in questo modo era impensabile. Quindi io penso che il City ieri abbia messo la freccia e si qualificherà, poi è ovvio che è da qui a diventare una squadra quasi perfetta come il Chelsea, per esempio, e la strada è lunga, è tanta. Sì, sì, sì. Grazie Pier. Allora, se sai qualcosa di nuovo mi chiami. Sì, qui un sacco di tifosi più che altro. Un sacco di tifosi, non avevo dubbi. Okay. Buon divertimento con i selfie. Ciao. Borsa, torniamo, 800 24 00 24 per chiamarci. Tutti convocati. I just can't get love. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocati. In molti avete telefonato e state telefonando all'800240024 perché il caso Bonucci è molto interessante in questa strana, difficile e intrigante vigilia di Porto Juventus. In tanti state scrivendo cose come: è ovvio che la società ha dato il benestare, non siamo l'Inter, alla Juve la società è forte e presente, argomento di cui discutere. Però, e se ne discute, perché, diceva Paolo Rossi, certamente la società ha dato il benestare, ma non è questo il modo in cui normalmente la Juventus gestisce i casi spinosi, perché eravamo rimasti alle dichiarazioni del dopo Juventus Palermo, le abbiamo anche sentite all'inizio, quando Allegri diceva: tutto chiarito, tutto a posto, non c'è problema, si è anche automultato con una manovra discutibile, questa multa da dare in beneficenza, perché sono io il primo ad aver perso le staffe, eccetera. Però questo viene dopo alcune mancate strette di mano, perché Dybala e Lichtsteiner avevano mano sporca, non volevano insozzare quella del tecnico, ci ha scherzato sopra qualcun altro. E siamo qui con appunto un qualcosa di inedito per quanto riguarda, ripeto, la Juventus, senza stare a quella volta che Bovo Vieri mise Lippi nell'armadietto a spinte, quella volta che Schillaci prese a testate Roberto Baggio, che muoveva col piede un giornale dove si raccontava in modo un po' così della signora Rita Schillaci, quella volta del centro massaggi, quella volta che Deschamps non volle più trangugiare pasticche colorate, quella volta dell'attaccante che per mesi aveva una distrazione sì, ma non muscolare, qualcosa da tirare col naso e non col piede, quella volta di Vidal ubriaco e poi quell'altra, eccetera, eccetera, tutte cose che... No, segreti di Stato aperti da Maurizio Crosetti. Luciano, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi sente? Sì, dica. Grazie per la convocazione. A lei. No, due considerazioni. La prima, che vengono fuori le cose perché ormai non si può più tenere nascosto dentro niente, nel senso che no, tra si può, social anche la moglie di Bonucci ha tirato fuori in ballo o così o prendere o lasciare, cioè è più difficile, nascosto, ma è un po' più difficile, ma si può. È più difficile e più complicato. Lei ha ragione, ma se può fare. Guardi, si può fare. E secondo, rispondendo anche all'ascoltatore che prima ha detto chi dei due rimarrà, io sono convinto che la società ha già deciso e li caccerà tutti e due, non vuole come dire... Ma allora, no aspetti Luciano, cacciare mi sembra una parola sbagliata, perché no, né Allegri perché? Né no, perché cacciare mi sembra la parola sbagliata, perché non caccerà né uno né l'altro. Per quanto riguarda Bonucci, si sono anche in estate sono state offerte faraoniche da parte ad esempio del Chelsea di Conte, potrebbe essere una manovra di mercato. Allegri, io ho l'impressione che andrà via, ma non verrà cacciato dalla Juventus, si separeranno le strade, ma sto discutendo sul termine cacciare entrambi, lei non è d'accordo? Contro la società, contro l'allenatore, contro tutti, è un modo come per avere una via libera, perché Bonucci avrebbe accettato o il Chelsea o il City, è stata un po' la società a volerlo trattenere allungandogli il contratto. Mi dà l'idea che sia una mossa per dire ok, io voglio andare, faccio casino, la moglie, ripeto, dice prendere o lasciare. Cosa vuol dire prendere o lasciare? No. Vuol dire che lasciatelo andare. A me ha dato quell'impressione, ma non so, può prestarsi, può essere una lettura andare. Può essere una lettura. Bonucci rimane comunque uno che non è il caso di fare troppa retorica, troppa enfasi, però è uno che a quella maglia ci tiene davvero, che vive la Juventus, che vive la partita in modo, glielo assicuro, in modo molto intenso. Roberto da Cuneo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi convocato. Ma mi avete quasi anticipato. Io volevo proprio parlare di questa questione qua, che secondo me Bonucci è stato troppo eclatante la scenata che ha fatto. Secondo me è proprio una questione di mercato, che fanno in modo che quest'estate vendendolo non ci sia tanto casino e... Secondo me è già deciso. No, su questo non sono d'accordo, Roberto. Non la vedo una cosa premeditata per in chiave mercato, ma non c'è nessuno che può rispondere in maniera più appropriata da questo punto di vista, se non il nostro ospite, uno dei principi del foro dei procuratori, Federico Pastorello. È anche uno dei principi di Monte Carlo, peraltro. Grazie, sei sempre molto gentile. Ciao, buongiorno, Fede. Intanto buon pomeriggio a tutti voi. A me non sembra una mossa deliberata in funzione del mercato, è per farsi mandare via. No, ma dai. No, assolutamente. Io credo che in quei momenti non è che si ragiona più di tanto, tant'è vero che infatti il gesto che è stato fatto comunque è stato sicuramente un gesto del tutto spontaneo, sia quello di Bonucci probabilmente che di Allegri, quindi non vedo nessun tipo di strategia. Poi io Bonucci non lo conosco personalmente così bene da poter esprimere un giudizio profondo, però credo che sappiamo che è uno che vive la partita in maniera sanguigna. Infatti non vedo assolutamente nessun tipo di premeditazione in tal senso, guarda, lo escluderei quasi al 100%. Al 100% anch'io. Più che altro, come valuti la posizione della Juventus in questa vicenda? Ma oddio, credo che la società abbia fondamentalmente fatto quello che era giusto fare. Purtroppo è arrivato in un momento particolarmente delicato, nel senso che dopo, sai, nel momento in cui dopo la partita va in un certo modo sei campione, nel momento in cui la partita dovesse andare invece in un modo un po' diverso, quindi chiaramente negativo, rischieresti poi di essere coperto da migliaia di critiche, perché se c'era quello, se non c'era quell'altro, e quindi si darebbe spazio a tantissime critiche. Però io credo che, così vedendo dall'esterno, credo che la posizione della società sia stata assolutamente esemplare, e anche poi l'atteggiamento dei due protagonisti successivi alla vicenda sia stata molto, molto corretta, insomma, ecco. Quindi adesso speriamo soltanto che non ci siano dei problemi dal punto di vista tecnico speriamo, per la partita di Champions. Speriamo, anche perché ricordiamo che Chiellini e Barzagli sono reduci da infortuni. Senti, è la Champions League più pazza del mondo, la Champions League no, dicevo prima, zemaniana, una Champions League, tanto Zeman è tornato ad essere di moda, in cui si segna molto, si subisce molto, succedono cose strane, ci sono mine vaganti e poche certezze. L'unica certezza al momento, per quello che abbiamo visto, è il Bayern di Monaco. Tutto il resto è un gran rimescolare. Il Monaco, che tu conosci molto bene, vivendo nell'area nell'area del Principato, tra l'altro hai anche un giocatore, De Santis, nel Monaco, forse dopo ieri sera sarebbe anche il caso di far giocare, ma questo lo dico io. Non posso rispondere. rispondere. Tu non, po- no, no, non, to- non ti ho chiesto una risposta, però comunque ieri sera si è un po' buttato via contro un City che convince pochissimo. Verissimo. Sì, poi anche con rigore sbagliato che avrebbe potuto ancora più uccidere la partita. Guarda, fermo restando che con questo risultato pazzo e con tutti questi gol fatti, effettivamente comunque il ritorno rimane quantomeno non scontatissimo, anche perché il Monaco è un club che segna, cioè una squadra che segna con una facilità esagerata, in casa in modo particolare, ma comunque anche fuori casa. Quindi effettivamente il ritorno sarà una partita veramente molto, molto interessante da vedere. Tornando alla tua considerazione iniziale, senza ombra di dubbio è una Champions League che non ha padroni in questo momento, perché il Bayern Monaco sicuramente ha convinto in questa fase, però comunque nella prima parte non è che abbia avuto così un cammino così spedito come non l'ho avuto all'inizio in campionato. Adesso va chiaramente meglio perché la squadra comunque è molto forte e Carletto Ancelotti è uno dei migliori allenatori, i migliori 3-4 allenatori del mondo, quindi sicuramente ha le credenziali, però sono d'accordo che non c'è veramente una squadra che tu dici essere certa finalista o possibile vincitrice del torneo. E io, guarda, faccio una considerazione in più per un dibattito successivo, è che io non credo che sia un caso, cioè non credo che sarà la sola Champions League da oggi in avanti che avrà questo tipo di incertezza, perché per come si stanno muovendo anche gli investimenti nel mondo del calcio, quindi in un panorama proprio europeo, io credo che questo livello di incertezza sarà sempre più ampio. Cioè io non vedo un Barcellona come c'è stato per tanti anni, non vedo il Real Madrid, non vedo... Ma tu dici sul fronte interno o a livello europeo? No, a livello europeo. A livello europeo. Io credo che a livello europeo. Volesse Dio, perché sì, per no, quanto infatti, riguarda infatti i singoli campionati siamo... Io sono dichiaratamente per la Superlega, ma questo in maniera dichiarata proprio 100%, se c'è da votare metto la X sull'ipotesi Superlega. Ti chiedo un secondo di pazienza per il traffico, poi un altro paio di domande per te, Federico, se permetti. Tutti convocati. Federico Pastorelli in linea con noi. In questo momento, Federico, non sono tu assistiti, ma Agüero o Falcao? Chi rappresenteresti più volentieri? No, guarda, Falcao, ti dico la sincera verità, è un giocatore che sta rivivendo una nuova giovinezza, cioè sta vivendo una nuova giovinezza perché effettivamente tutti lo davano un po' per finito, visto le ultime esperienze poco fruttuose in prestito, però devo dire che è tornato a Monaco e sta tornando il giocatore killer che era ai tempi dell'Atletico, quindi devo dire che oggi come oggi, come agente dovessi scegliere, probabilmente sceglierei Agüero, perché forse alla fine dell'anno magari si muove mentre Falcao credo che starà volentieri lì dov'è, anche perché ripeto ha già girato abbastanza e credo che a questo punto sia veramente contento di vivere questa nuova stagione nel Monaco, e quindi lo vedo difficile che possa muoversi, quindi da questo punto di vista sceglierei Agüero. Il Kun Agüero che può essere il sogno di qualche tifoso milanista del dopo closing, ma questi sono discorsi che verranno, tra l'altro non so nemmeno se quei cinesi qualunque siano abbiano i soldi per pagare Agüero, lo stipendio di Agüero. Può essere un Guardiola da zero titoli, lo so che è ancora in corsa per, lo so Giorgio De Luca, lo so che è ancora in corsa per, sto parlando con il mio autore di là del vetro che mi guarda male, so che è ancora in corsa per l'FA Cup che potrebbe vincere, però insomma stiamo parlando di titoli quelli che contano. Ma lo Sheikh Mansour ieri avrà fatto il De Laurentiis dopo la partita? No, non credo. Ma non credo, di De Laurentiis ce n'è uno solo, quindi non credo che da questo punto di vista possa essere imitato. Adesso scherzi a parte, ovviamente non me ne voglia il presidente, però diciamo che Sì, questa stagione City ha avuto effettivamente qualche problema, ma sono venuti da un cambio molto importante anche di filosofia di gioco, eccetera. Quindi ripeto, c'è il Chelsea che effettivamente, anche se non è ancora finita, quindi bisogna dire, bisogna essere prudenti, ma il Chelsea di Antonio Conte sta ammazzando qualsiasi tipo di possibili anche avversari per il momento, quindi speriamo che continui così da tifosi italiani. Però certo, il City sta avendo un cammino difficile anche proprio in chiave di gioco, cioè raramente impronta di Guardiola in questo City, e quindi probabilmente questo è il punto da dove dovranno farsi ripartire l'anno prossimo, insomma, quindi, perché probabilmente per un cambio così anche di mentalità magari c'è chi c'è riuscito prima, e magari in questo, in questo caso Guardiola magari avrà bisogno di una stagione di più tempo. Grazie Federico, assolutamente. Grazie mille, come sempre un piacere. Piacere nostro, Federico Pastorello. Io oggi siamo andati a parlare di bazzecole, di Bonucci, di Champions League, di queste piccolezze. Io oggi avrei dedicato l'intera puntata a Wayne Shaw, portiere del Sutton, perché è stato licenziato, pensate un po', per quella storia del panino delle scommesse. Ma che c'entra? Cioè, prendetemela con i bookmakers inglesi che permettono quotazioni anche su chi respira per primo quando entra in campo, per non dire cose più volgari, sulla prima rimessa laterale, sul primo calcio d'angolo. Ma questa è una istigazione a delinquere, al di là del povero Show. Vabbè, un giorno ne parliamo, perché è un argomento che mi sta a cuore. Tancredi Palmeri, ciao, torna a Porto. Buongiorno. Senti, mi ha detto un uccellino che hai avuto una soffiata. Ragazzi, non funziona. Io speravo di poterla dare prima, ma la conferma l'ho avuto solo stamattina. E come tu ben sai, quando c'è queste notizie le deve dare prima che ti brucino, e ti brucia se ti brucino. 3 settimane fa la Juventus ha contattato Simeone per il prossimo anno e Simeone non ha detto sì, ma non ha detto nemmeno no. Se ha detto vediamo. Quanto vino verde hai bevuto? No, guarda, no, credimi, in relazione alla notizia o in relazione al mio soggiorno a Porto? No, in relazione a questa notizia, sei sicuro? Ha contattato Simeone? Ha contattato Simeone, e devo dire, io da un lato non mi stupisco, cioè noi ci possiamo stupire se pensiamo guardandola dal punto di vista di Simeone, probabilmente, però se tu lo pensi dal punto di vista di Agnelli, che da un paio d'anni a questa parte non fa più acquisti che possono vincere, fa acquisti per vincere, già vedi 90 milioni per i Higuain, ricordiamoci che si è sempre detto no, ma la Juve non spende 90 milioni per un giocatore a 29 anni, bam, senza né leggere né scrivere né pensarci. E in estate, fatto salvo il rispetto per i vari Spalletti, Paolo Sosa, però c'è differenza tra uno che è un buon allenatore o un ottimo allenatore come Spalletti, Paolo Sosa, che può vincere, e uno che effettivamente è un vincente, che è una sicurezza. Pensiamo, non è sarebbe un super allenatore. Quello che la vicenda Bonucci, Allegri, Juventus, insomma, di questi giorni mi fa pensare è che sia la last dance per Massimiliano Allegri. Io lo penso da tempo che questa sarà la sua ultima stagione juventina, nonostante le continue smentite eccetera eccetera. Pensavo che la Juventus fosse più indirizzata verso i due nomi che hai fatto. Guarda, in questi casi secondo me è sempre meglio essere molto laici, perché veramente nella retroscena di mercato può accadere tutto e il contrario di tutto. Sugli episodi di Bonucci, che appunto è stato clamorosissimo, io non ero a Torino a fare quella partita, ma mi hanno detto, al di là delle immagini che abbiamo visto su Premium, al di là del fatto che ho avuto io, ma come altri, ottime rassicurazioni sul fatto che la lite è continuata pesantemente nello spogliatoio, ma chi era là presente mi ha detto che proprio è stata una scena brutta da vedere, cioè a livello quasi che si mettevano le mani addosso sul campo. Quando succedono questi esempi, uno a breve giro all'altro, guarda, ieri eravamo con Cammino Stadio Dragao in treno con Maurizio Crosetti, e ci ragionavamo che ci ricordava quando Ibrahimovic a fine 2008 con Mancini, nonostante Ibrahimovic diede tutto perché fece vincere quello scudetto nel diluvio di Parma, entrando alla panchina, bam, doppietta, ma sì, fu sostituito da Mancini e uscendo se ne uscì con quella frase: tanto a fine anno te ne vai. Sì, sì, cioè, sì, sì, sì, quando sì, tu vedi lo spogliatoio che sì, ti rispetta, ma che non sente più quell'ascendente che sentiva prima, certo, sono vari segnali. Sono vari segnali, hai ragione, da vendere. Grazie Tancredi Palmeri per Bwin con questa notiziona. Che cosa c'è, Giorgio De Luca? Eh? Bwin, e io cosa ho detto? Bwin. Mi mettono in bocca, mi travisano quello che dico. Grazie Tancredi. Ciao, grazie, ci sentiamo subito dopo il GR, vi aspetto. 800 24 0024 il numero verde. Convocati. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Ricominciamo tutti ai nostri posti. Convocati. Signori, se non abbiamo ancora finito, anzi abbiamo appena iniziato, perché non c'è solo Bonucci, non c'è solo una Champions League piena di gol, di soldi, di incertezze, c'è anche Marco Beninazzo del Sole 24 Ore. Eccomi, buon pomeriggio. Sport and Business so che dedicherà le prossime edizioni, posso svelarlo, no? A Wayne Shaw e al caso del Sutton. Sì, parleremo di come bisogna mangiare i panini in panchina. Difendendo Wayne, per me è un genio. Shaw, che è stato licenziato perché pare che dietro ci fosse un giro di scommesse, cosa a cui io non credo fino a prova concreta. Io voglio ancora credere che sia stata una questione di appetito eccessivo. Al ragazzo è venuto un attacco di calo di zuccheri, l'amore maciata. E d'altra parte, cioè, tutti sapevano che Chang mangiava le banane durante gli incontri. Esattamente. Quei bastardi dei bookmakers inglesi potevano quotare anche quello, ma no? Non l'hanno fatto. No, ma anche perché insomma, tu quoti di chi sarà il primo faro laterale. Io sono un giocatore, vengo da te, Marco Beninazzo. Cioè, gioca ste mille sterline che butta la prima palla, il fallo laterale. No, discorso lungo, no, facciamo in serie o proviamoci, anche se ci stiamo divertendo molto. Abbiamo fatto il confronto tra il tuo Napoli e la Real Madrid dal punto di vista economico, finanziario, poi sul campo con De Laurentiis dopo partita sappiamo com'è andata, e vediamo la prossima puntata Juventus Porto. Anche qui una partita molto squilibrata, in questo caso però a favore della squadra italiana, con quasi 300 milioni di fatturato in più, ma devo dire che nel caso specifico è stato bello, insomma, andare ad analizzare, ed è curioso andare ad analizzare ciò che avviene al di là del campo nella società juventina e in quella portoghese, perché abbiamo due modelli completamente diversi. Uno è il modello classico, sia pur moderno, di gestione industriale del calcio. Il Porto è l'emblema della football finanza, dello sfruttamento delle TPO, dei fondi di investimento, di giocatori. Non dire parolacce. Non dico parolacce, ma se tu vai a guardare la lista dei giocatori che sono in organico al Porto, ancora oggi, nonostante il divieto della FIFA, tu noti come non sono tutti al 100% del Porto, ma sono percentuali, 75%, 60%, e dovrebbero in qualche modo giocare anche in percentuale minore, no? Pensare a un giocatore al 60%, certo, vuol dire che il 60% dovrebbe uscire, insomma, ora parte le battutacce, però è un modello in cui, anche grazie alle norme che facilitano la naturalizzazione di brasiliani, sì, o giocatori, sì, che arrivano, sì, dalle ex colonie portoghesi, questi giocatori poi vengono venduti ai fondi in percentuale, il Porto li valorizza. E in gli ultimi 5 anni, il Porto ha fatto più di 250 milioni di plusvalenze. Non tutti i soldi sono finiti alla società portoghese, perché poi sono finiti ai fondi, certo, a questi agenti. La FIFA formalmente ha vietato, come sappiamo, la possibilità che soggetti estranei al club abbiano proprietà sulla quota del cartellino. Fatto sta che nel bilancio 2016 ancora ci sono queste realtà. sono sì. evidentemente vecchi contratti che devono poi scadere, però ecco, il Porto è l'emblema del calcio finanziario, a molti non piace, però di fatto molti non piace, cioè, diciamo che è un Atalanta in stile diverso e in grande stile che comunque vince i campionati, resta, no? Ora non li sta vincendo, però resta il fatto che se guardiamo gli ultimi 15 anni di Champions, sì, l'unica squadra non tra le grandissime a vincere la Champions è stata il Porto, allenata da un certo José Mourinho. Non mi sembra caso, riconoscerlo, non a caso tra i maggiori assistiti di Jorge Mendes, il super agente che del calcio finanziario ha fatto un po' l'emblema. Sì, Marco, tra poco parleremo anche di, insomma, voglio anticiparvi che su Sport e Business di venerdì sabato, avrete una grande sorpresa che vi consiglio relativa alla competitività dei campionati. Siamo in pieno casino Lega e siamo in piena campagna elettorale per quanto riguarda la Federcalcio, aspettiamo un grande ospite, ma siamo anche in un momento caldissimo per quanto riguarda lo stadio di Roma, sì, dove sta succedendo tutto il contrario. Premesso che capire quali sono le intenzioni dei 5 Stelle è un po' come per i vecchi aruspici romani guardare nelle budella gli animali e dire cosa vorranno fare. Brillo ha appena annunciato, siamo proprio nella cronaca viva, che la Raggi parlerà tra uno o due giorni. C'è questo inspiegabile diktat della soprintendenza che ha detto che la tribuna del vecchio ippodromo, praticamente malandata, quasi abbandonata da alcuni anni, in realtà è un bene inestimabile per l'architettura, quindi sì, c'è un vincolo. Problema non da poco è che con questo vincolo viene a cadere gran parte del progetto dal punto di vista architettonico, e non si capisce come questo parere così forte, così negativo sia venuto fuori solo dopo 2 anni e mezzo dall'inizio della procedura, e in particolare dal dicembre 2014, quando il Comune di Roma ha riconosciuto l'interesse pubblico sul progetto. Facciamo la faccia sorpresa? Assolutamente no. Vogliamo, però facciamo fare un po' sorpresa. La faccia, se vuoi facciamo faccia sorpresa, tanto per radio non facciamo la faccia triste, ma il problema vero è capire che questo stadio va fatto. Io ritengo che ci siano delle professionalità molto più elevate della mia sul piano urbanistico, idrogeologico, che ci devono dire, e lo stiamo aspettando da 3 anni, se lì lo stadio si può fare, se è una zona pericolosa o meno. Se non lo è, dicasi 3 anni per capire se è una palude in cui uno stadio sta in piedi. Allora cambiamo discorso, perché abbiamo un grande ospite in linea, Andrea Bodi, che è in corsa per la poltrona Federcalcio. Buongiorno. Buongiorno, spero che non sia soltanto una poltrona. Buongiorno a tutti. Posso dire che è una delle più importanti in Italia. Questo lo può confermare anche Marco Beninazzo. Assolutamente. Io penso che sia una delle responsabilità più grandi. Sì. Sicuramente sì. E il non voglio usare termine poltrona in termini dispregiativo, però è una visione diversa proprio del ruolo. E il discorso che stavate facendo, che condivido nello spirito, mi trovo assolutamente in prima linea, e chi conosce questi 6 anni e mezzo di lavoro in Lega con le nostre piccole risorse ha compreso l'importanza che diamo alle infrastrutture in senso lato. Non a caso apriremo il primo cantiere, se Dio vuole, a Cagliari entro la fine dell'anno. È il primo piccolo risultato di uno sforzo che abbiamo fatto solitario, e che prevede altri 6 progetti che sono in cantiere, quindi se Dio vuole qualcosa si può anche muovere. Mi consenta, ma piccolo a Cagliari non direi, visto il pregresso, perché a Cagliari abbiamo visto di tutti i colori. Assolutamente sì, ma da un certo punto di vista credo che il fattore, non dico decisivo, ma comunque che ha determinato un po' un cambio di passo, è il metodo, anche lì, perché molto spesso è il metodo che porta più facilmente al risultato, è il metodo di lavoro che fa individuare i rischi, che valorizza le opportunità, che fa nascere un progetto dal basso e non calato dall'alto, che fa lavorare architetti e ingegneri dopo che si è sviluppata l'analisi. È una metodologia di lavoro. Io sono convinto che questo non risolva tutto, ma aiuta a limitare i danni di un paese che è molto più predisposto a dire no e senza condizioni piuttosto che siccome. Io volevo salutare Andrea, che stimo, che è sicuramente uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, quindi faccio un riconoscimento pubblico, e naturalmente apprezzo molto che ci sia questa sfida con Tavecchio, che al di là di un inizio con tante problematiche, poi ha fatto anche delle cose positive, per cui credo che vinca il migliore. Noi abbiamo un ruolo istituzionale, ma ci sono tante cose positive che stanno emergendo nel dibattito, e questo già è un bene, no Andrea? Tra l'altro Bifutura insomma è stato uno dei tanti tuoi cavalli di battaglia, qualcosa che ha permesso effettivamente di arrivare a delle relazioni positive con le società e con i comuni. Si sta facendo molto, io spero che poi ci siano effettivamente questi cantieri e che si vedano anche innalzati gli stadi. Mi chiedevo appunto se dal tuo punto di vista la federazione può fare di più, può spingere sul governo ancora di più per questi stadi, o se a tuo avviso insomma finora la federazione è stata un po' troppo timida rispetto a queste procedure e alle problematiche che sono sorte. Ma io penso che maggiore intraprendenza, che non diventi poi magari invadenza e non sia apprezzata nel modo giusto, sia sempre auspicabile. E quando l'intraprendenza è un'intraprendenza di sistema del soggetto regolatore, diventa di pubblica utilità. Evidentemente noi ci siamo, cioè la federazione probabilmente si è occupata delle norme per i criteri del sistema di scienze nazionali, si sta occupando anche dell'adeguamento degli stadi agli standard UEFA che consentono anche di ospitare eventi internazionali, ma qui dobbiamo partire ancora da più su, cioè proprio dalla realizzazione di un grande progetto di ammodernamento del sistema dell'impiantistica sportiva di vertice, di alto livello, gli stadi o anche della parte che riguarda gli impianti di allenamento. Io credo che la federazione dovrebbe lavorare anche con il Ministero delle Infrastrutture piuttosto che dell'Economia per creare un fondo strategico di scopo, cercare di recuperare nell'ambito delle pieghe della finanza pubblica delle risorse da mettere in una contribuzione in conti interessi che possa agevolare ulteriormente le società, che possa favorire anche la nascita delle accademie, che è una cosa ben diversa dai centri di formazione territoriale e possono convivere tranquillamente, perché se non si innerva il tessuto con questa rete di infrastrutture diventa difficile fare tutta la parte di formazione, reclutamento, seguire la crescita e chiedere ai tifosi di rientrare allo stadio, e questa è solo una parte del problema, quindi la vorrei certamente più intraprendente, più sistemica e più sistematica nell'azione. Parliamo un attimo di riforma dei campionati, che è un argomento che mi sta estremamente a cuore. Ripeto, Sport e Business ne occuperà e le mie ragioni hanno dati importanti e a noi non graditi per quanto riguarda la competitività dei campionati in corso. Abodi, io sono e resto, lo so, saremo su parti, posizioni, fronti diversi, resto dell'idea rebus sic stantibus di una Superlega, cioè di una Eurolega del calcio, visto lo strapotere di alcuni grandi club molto più ricchi degli altri all'interno dei rispettivi campionati. La Juventus si faccia la Superlega, poi se vuol partecipare anche al campionato italiano lo faccia pure con le modalità che crede. Però io credo che quella della Superlega sia adesso o con tempi da definire una soluzione. Io penso, intanto se parliamo come sistema calcio è qualcosa di molto più articolato e profondo, poi se lo riduciamo esclusivamente allo spettacolo al suo più alto livello, evidentemente quella è la dimensione di cui stiamo parlando, però il calcio sopravviverà anche a quell'aspetto lì. Io credo che la Superlega, che come ricorderete venne concepita in Italia 20 anni fa, e io fui un osservatore privilegiato perché ero dentro la realtà che la pensò allora, provocando esclusivamente una rivisitazione del modello della Champions con la crescita dei soggetti coinvolti e la crescita poi dei ricavi, fondamentalmente una diversa modulazione della competizione, cosa che sta succedendo anche adesso. Comunque la Superlega sarà un fatto inevitabile. Il problema sarà soltanto, come succede spesso nei confronti del futuro, come valorizzare il prodotto interno. Tanto se la aspetteremo cercando di resistere, di allontanare quell'appuntamento che non è programmato ma che comunque arriverà, oppure se ci organizzeremo in modo tale da farci trovare pronti a quell'appuntamento per evitare che dopo la Superlega continui tutto il resto, perché sono due piani inevitabilmente diversi nei quali si continuerà a giocare a calcio, però con uno spirito che sarà del tutto differente. E su questi argomenti mi sembra che i partiti siano quelli che ne hanno paura. Io credo che la federazione lungimirante, che ha gli strumenti culturali per affrontare questo tema, e declinarlo anche in tutti i livelli della piramide sportiva, deve poter essere attiva, non soggetto passivo o semplicemente un membro dell'UEFA che magari con logiche che sono esclusivamente degli assetti attuali svolge quella funzione come dire, per rallentare il processo. Queste cose succederanno, potrà succedere fra 20 anni, 10 anni, chiaro. 15 anni. Andrea, volevo chiederti, scusami. È la lungimiranza, un po' è la prospettiva che bisogna avere quando si è al vertice dell'organismo. In quest'ottica, quindi la piramide interna, chiamiamola così, quella del calcio italiano, come te la immagini rispetto al fatto, insomma, che ci debbano essere magari un minor numero di squadre, di organizzazione della Lega Pro? Petavecchio, per esempio, ha parlato di due sole retrocessioni dalla alla B, l'introduzione delle squadre B. Tu come immagini, insomma, guarda, il sistema calcistico? Francamente questo campionato che stiamo vivendo di serie è imbarazzante. Sì, ma guarda, io faccio alcune considerazioni semplici da condividere con voi e chi ci ascolta. A parte il fatto che ho ravvisato in tutto quello che è stato inserito su questo tema nel programma di Carlo Tavecchio, gli appunti che gli lasciai sul tavolo più di una volta sull'argomento stesso, ma questo diciamo che fa parte del gioco. Secondo aspetto, io ritengo che un programma del Presidente federale non debba entrare così nel dettaglio di come debba essere l'assetto, deve disegnare le traiettorie, indicare le discriminanti, identificare gli obiettivi, gli strumenti, i criteri, poi sta al confronto con le parti interessate. Se già nel programma si è così indicativi, io credo che si faccia un errore. Per alcuni è la concretezza, per me è un limite che rischia di diventare anche il blocco della riforma, perché parliamoci chiaro, dopo 2 anni e mezzo di presidenza avremmo potuto tutti noi che abbiamo partecipato comunque trovare qualche soluzione. A me non piace giocare al gioco e quando arrivano le elezioni tutti vogliono essere più bravi, più efficienti, promettendo questo e quant'altro. Abbiamo avuto il tempo per dimostrare la capacità di trovare queste soluzioni. Come mai ci ritroviamo adesso per le elezioni a rilanciare distribuzione di risorse e elaborazione di modelli di riforma dei campionati? È il metodo, è la volontà che parte dalla conoscenza dei dettagli, delle meccaniche, l'analisi. Allora si arriva poi a passare dall'analisi al risultato finale, perché sarà soltanto il risultato finale quanti saremo, che standard vorremmo perché si partecipi a questo o a quel campionato, che missione avremo, che risorse finanziarie avremo a disposizione anche in termini di solidarietà tra le categorie. Se non si parte da questo, e non abbiamo purtroppo lavorato in questo senso, è inutile fare i programmi nei programmi. Sì, no, ma io comunque volevo aggiungere che della sua direzione della Serie B da commissioner ho apprezzato anche piccole cose e piccoli dettagli, perché nel calcio, che è uno sport conservatore anche a livello politico, io ad esempio, sarà una stupidaggine, ma ho apprezzato moltissimo questa innovazione del giochiamo comunque durante le vacanze come si fa in Inghilterra. Ogni piccola novità portata a termine, secondo me, ha la sua logica e la sua importanza. Lei, ma c'è una motivazione sì, che di fondo noi ogni giorno, e quando dico noi non è soltanto il sottoscritto, la squadra che ci lavora, i club che appartengono a questa famiglia sportiva, tutti noi, chi più chi meno, chi con consapevolezza e chi magari forzato dalla Lega stessa, ogni giorno ci svegliamo per fare una cosa, migliorare. Cosa possiamo fare di nuovo per migliorare? Come possiamo aggredire il problema? A volte sono cose che hanno una visibilità e un'efficacia immediata, altre volte hanno bisogno di tempo, perché su certi processi bisogna avere costanza, perseveranza e pazienza. E questo fa la differenza. La singola iniziativa è semplicemente il frutto di questa ispirazione costante, migliorare, per servire al meglio i nostri tifosi, i nostri investitori. E se non si fa questo, diventa difficile. Un'ultima cosa, dovesse vincere l'elezione alla presidenza federale, il rapporto con la nazionale, che nazionale sogna? Ma io sono, per me è un sogno già la nazionale, quindi sogno la nazionale molto più, sempre più vicina alla gente, per quanto sia difficile la relazione tra la nazionale e il club, ma anche questo sta nella capacità del tecnico, il CT, come in questo momento certamente Ventura, di rendere più compatibile l'esigenza della nazionale con l'esigenza dei club che competono poi a livello europeo. Cioè, se il metodo è sbagliato o se il modello è sbagliato, probabilmente l'effetto che si produce è un allontanamento degli interessi. Io credo che ci sia invece una matrice comune che vada valorizzata, e sono anche convinto che questa capacità di andare a cercare i giovani già pronti, maturi, per vestire alla maglia, renderà ancora più semplice il tutto, perché ci sarà sempre più entusiasmo, fermo restando che noto con grande orgoglio l'attaccamento alla maglia con tutti i suoi valori da parte anche di quelli che vengono chiamati senatori. Ci sono le condizioni giuste per fare un salto di qualità. L'ultima cosa che voglio dirvi: la nazionale non è una, ce ne sono tante. C'è l'Under 21 che guarda le Olimpiadi, ci sono quelle giovanili che sono comunque una tappa di transito, ci sono quelle nel calcio a 5 che comunque ha conquistato allora internazionali, quella del bistocker uguale che può crescere, quella femminile. Ogni maglia della nazionale secondo me può essere un messaggio diverso per modulazione di frequenza, per efficacia, per target, quindi c'è un concerto attorno alla nazionale che in Italia e anche a livello internazionale, considerando i tanti italiani nel mondo, che può produrre molto più effetti positivi per l'immagine del calcio italiano. Grazie, grazie, in bocca al lupo. Grazie Andrea, in bocca al lupo. Buona giornata a voi. Grazie Andrea Bodi. Intervisteremo anche Tavecchio, eh? Anzi Marco, sarebbe interessante organizzare un faccia a faccia. Cosa beh, dici? Sarebbe stile americano. Stile americano sarebbe molto molto interessante, anche perché ci pensi tu? Beh, ora proviamo a organizzarlo, mi piace. Pensaci tu, in attesa del closing, mentre pensi al closing. Ma il closing ormai non c'è problema, ormai è diventato quasi noioso, insomma, seguirlo. Quasi noioso. Le ultime parole famose. Diventato quasi noioso da mo. Guarda, per farti un regalo salutiamo Giuseppe da Napoli, ascoltatore con cui chiudiamo il programma di oggi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Siamo in chiusura, dica. Siete i profeti del calcio, lei e Spal. Sì, come no. Volevo dire una cosa, lei ha parlato delle mini vacanze, ma il Lynch è di Ranieri, secondo lei? Cosa? Io dico che va ai quarti, lei che dice? Io ho una gran paura che vada nella Serie B inglese invece. Baratterei volentieri un'eliminazione per il bene che voglia Ranieri, un'eliminazione anche da col Siviglia, da partire da stasera, con la certezza di una permanenza nella Premier League inglese. Marco, credo che anche Ranieri, insomma, abbia lo stesso sogno, insomma, sarebbe davvero un peccato. Non la vedo come mina vagante, io spero fortemente che rimanga in Premier League e ho i miei seri dubbi, se mi permettete, ragazzi. Marco, grazie, alla prossima. A presto. Alla prossima. Grazie a Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao.